GR24, il sole 24 ore. La rivolta dei tir ad Asti, un camionista investito muore in un incidente. Stop ai blocchi, annuncia la sigla sindacale Trasporto Unito. Lavoro sulla cassa integrazione, il ministro Fornero frena, prematuro parlare di modifiche. Raggiunta l'intesa sul Fondo Europeo Salva Stati dai ministri economici dell'Unione, apprezzamenti all'Italia e lo spread scende ancora. Concordia, iniziano le operazioni per il recupero del carburante. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, benvenuti a questa nuova edizione di GR24 che apriamo ancora una volta parlando della situazione sulle strade, sulle autostrade relativamente al blocco degli autotrasportatori. Come sapete questa mattina c'è stata anche una vittima ad Asti, probabilmente per un incidente. Poco fa però la sigla Trasporto Unito ha lanciato un appello all'interruzione dei blocchi, ma facciamo il punto su questa giornata davvero convulsa con Maria Luisa Pezzali, buongiorno. Buongiorno Alessio, a te e agli ascoltatori. Un manifestante morto, appunto, fermi gli stabilimenti Fiat e poi blocchi e disagi non solo alla circolazione ma anche agli approvvigionamenti di merci e benzina. Quella di oggi insomma è una nuova giornata di caos per la protesta dei tir, protesta che nonostante appunto qualche segnale di allentamento dell'ultima ora continua. Partiamo dalla vittima di Asti. L'incidente, quello che sembra delinearsi sempre di più come tale, è avvenuto all'alba sulla statale 10. Un camionista 46enne, Massimo Crepaldi, che stava manifestando, è stato investito e ucciso da una collega tedesca di 52 anni. Nel tentativo di aprirsi un varco tra i mezzi, la donna lo avrebbe investito accidentalmente. La dinamica però è ancora al vaglio degli inquirenti. Gli interrogatori sono ancora in corso nella questura di Asti. Situazioni di tensione si sono verificate anche in altri presidi, in particolare nel napoletano e nel salernitano, dove la polizia è intervenuta per rimuovere i blocchi. Sentiamo a questo proposito la testimonianza di questo camionista Daniel, che ci ha chiamato per raccontarci che cosa gli è successo a Casoria. La raccolta Katia Caramelli. Mi hanno fermato, abbiamo passato due notti e una giornata, fino a che stamattina alle 8 si sono fatti presenti le forze dell'ordine in assetto antisommossa e hanno liberato tutto. Come sono uscito? C'era il fermo un'altra volta, mi hanno fermato, mentre io sto parlando ho paura perché qua fuori stanno fermando furgoncini, qualsiasi cosa che va al lavoro, e li tagliano subito la valvola delle gomme con una tenaglia. Mi hanno tagliato le valvole sia del trattore che del rimorchio, io non mi potrei muovere nemmeno un centimetro, ma come me tutti gli altri, ho paura per la mia incolumità, insultano e minacciano. Io mi sono bloccato dentro e ora mi legherò con una corda alle porte perché ho paura che mi rompano le serrature. Al camion dietro di me le hanno spaccato il vetro della porta, le hanno aperto la portiera, lo hanno tirato giù e le hanno dato di santa ragione. E dopo l'incidente di Asti, un appello ad allentare i blocchi arriva da Trasporto Unito, la sigla principale che ha promosso la protesta. Proseguiamo la protesta, ma stop ai blocchi, chi vuole circoli, dice il segretario generale Maurizio Longo al microfono del nostro Andrea Viali. Con le lacrime abbiamo deciso di proseguire dando un appello a tutti coloro che sono nei presidi, cioè di allentare, non vale la pena, stiamo tentando di costruire una prospettiva, una sopravvivenza, quindi abbiamo detto di allentare, non è importante, chi non vuol partecipare si lasci andare via. Abbiamo sciolto alcuni presidi che individuavamo come presidi ad alta tensione. Quindi proseguiamo ma con maglie molto larghe, me lo auguro, perché altrimenti saremo costretti a compiere altri tipi di interventi come nazionale e soprattutto a invertire anche un tipo di protesta. Notizia di pochi minuti fa a Roma: ad impedire l'assembramento dei tir presso i caselli autostradali arriva un'ordinanza del prefetto Giuseppe Pecoraro, possono compromettere la sicurezza stradale, si legge, e interrompere un servizio pubblico. La polizia parla di viabilità in via di miglioramento. Nella mattinata però sono state molte le situazioni critiche nell'area portuale di Livorno, a 20 miglia alla frontiera con la Francia, sulla A21 Torino-Piacenza, chilometri chilometri di auto e tiri incolonnati sulla A7 Genova-Serravalle sulla A14 Bologna-Taranto. A causa dei blocchi per il mancato rifornimento dei componenti, gli stabilimenti Fiat sono rimasti chiusi. Ci sono timori anche per le scorte alimentari e per i carburanti. Manca già la benzina a Napoli, dove da ieri i distributori sono stati presi d'assalto, ed è corsa al rifornimento anche in Puglia e Calabria, dove gli scaffali di molti supermercati sono vuoti. Questa mattina, ultima osservazione, a Roma, nei mercati rionali, i prezzi di frutta e verdura erano già arrivati alle stelle. Tutto. Grazie Maria Luisa Pezzali. E proprio a proposito dei danni pesantissimi, soprattutto per il settore ortofrutticolo, causati da questa protesta degli autotrasportatori, Valeria De Rosa ha intervistato il presidente della Coldiretti, Sergio Marini. È già noto il bilancio dei danni in Sicilia, 500 milioni di euro. Sentiamo qual è quello per l'intera Italia. Per quanto riguarda la Sicilia, noi abbiamo già stimato una cinquantina di milioni di danni per quanto riguarda l'agroalimentare. Per quanto riguarda il resto del paese è un po' presto per dirlo, perché poi il problema è iniziato ieri e si sta verificando a macchia di leopardo, soprattutto sull'ortofrutta. Comunque già parliamo di qualche decina di milioni di danni. Ci auguriamo che insomma con oggi la questione si chiuda, perché se non fosse così, ortofrutta, latte, fiori, anche pesce, complessivamente sono un centinaio di milioni al giorno di prodotto che si sposta, e anche se se ne fermasse un 10-15% vi rendete conto che è tutto un prodotto deperibile. Un settore già duramente provato dalla crisi. Purtroppo sì, un settore che già vive grandi difficoltà di competitività, aumento dei costi di produzione, soprattutto per quanto riguarda l'energia importanti, pertanto questa ulteriore mazzata proprio non serviva. Stiamo praticamente assistendo al paradosso che il prodotto italiano di stagione rimane sui campi, soprattutto sull'ortofrutta, e magari è più facilitata l'importazione in alcune realtà o l'utilizzazione di prodotto conservato che generalmente non è prodotto nazionale. Avete già notizie di paesi che hanno disdetto e che stanno preferendo prodotti ad esempio in arrivo dalla Spagna? Beh, soprattutto per quanto riguarda gli agrumi, noi naturalmente ci auguriamo che non sia così, però effetti di disdette e di ordinazioni rispetto a contratti già stipulati ci sono state. E c'è invece una buona notizia su un altro fronte, quello dello sciopero dei benzinai, perché Figisc e ANISA hanno deciso di sospendere lo sciopero nazionale programmato lo scorso 16 gennaio contro le liberalizzazioni, anche se, fanno sapere le due associazioni aderenti a Confcommercio, resta la mobilitazione. E ora parliamo invece della riforma del lavoro, perché dopo le critiche sindacali all'indomani del primo tavolo con il governo, il ministro Fornero interviene: abbiamo solo indicato un percorso e non delle soluzioni, ha detto. Ma facciamo il punto con Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, è prematuro parlare di modifiche della cassa integrazione, se non una marcia indietro sicuramente una frenata, quella del ministro del welfare Fornero sull'idea di cambiare radicalmente l'attuale modello di ammortizzatori sociali, salvando solo la cassa integrazione ordinaria e comunque limitandola, un'idea bocciata dai sindacati che ieri avevano incontrato il ministro a Palazzo Chigi per il primo tavolo sul mercato del lavoro. Sentiamo allora il ministro. È stato detto Fornero vuole eliminare la cassa integrazione, non è scritto nel documento straordinario, non è scritto, e non lo so, vedremo, ne parleremo con i sindacati. Si può discutere? E io penso di sì, si deve discutere. E Fornero spiega come gradualità e dialogo con le parti sociali debbano accompagnare il cammino della riforma. Non abbiamo ricette precostituite, preciso, sarebbe stato arrogante da parte del governo. Anche sul contratto unico non c'è un'idea e si può discutere. Poi però avverte che qualche cambiamento bisognerà farlo, perché è difficile accettare che si dica tutto sommato il sistema così com'è funziona. Il sistema funziona male, dice Fornero, e va migliorato in un'ottica di equità. Ed è Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Intanto il governo Monti incassa l'apprezzamento dei ministri economici dell'Unione Europea sull'impostazione data dal governo alle riforme italiane. E riunione dell'Eurogruppo che ha dato il via libera anche all'intesa sul testo del nuovo fondo Salva Stati. Sentiamo. we were able to agree on the text of the revised ESA. L'accordo c'è, ma per la firma bisognerà aspettare marzo, e dallo stesso presidente Juncker ad annunciarlo. Il fondo salva stati permanente arriverà a luglio e convivrà fino al 2013 con il fondo provvisorio. Per decidere se attivarlo o no sarà necessaria la maggioranza qualificata per essere più rapidi in caso di emergenza. La dotazione del fondo però è slittata a marzo. Tanti premono per un incremento, il commissario Rehn, il premier Monti, il presidente della BCE Draghi e il direttore generale del Fondo Monetario Lagarde. La cancelliera tedesca invece continua a fare resistenza. Secondo il Financial Times, la signora Merkel sarebbe disposta a portare a 750 miliardi la potenza del fondo in cambio di regole più rigorose nel nuovo patto di bilancio europeo. Ma nessuna conferma è arrivata da Berlino. Rinviata a febbraio la soluzione del caso Grecia, il cui fallimento è ormai imminente, i ministri economici della zona euro hanno affrontato la bozza del trattato sul patto di bilancio, l'ormai noto Fiscal Compact. Per il momento le sanzioni sono fissate a un massimo dello 0,1% del PIL per i paesi che non si adeguano alle nuove regole sul deficit e a partire dal 2013 aiuti riservati solo ai paesi che avranno ratificato l'accordo. L'Eurogruppo ha poi passato al setaccio la situazione di Madrid e di Roma. Complimenti a scena aperta per le misure adottate dal governo Monti. Quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo è stato molto apprezzato. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa notizia ha contribuito, le notizie che venivano dall'Europa hanno contribuito ad abbassare ancora di più lo spread, il differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi. Sempre a proposito di mercati, c'è una notizia di pochi minuti fa, perché dopo l'agenzia di rating Standard & Poor's, anche la sede milanese dell'agenzia Fitch è stata presa di mira dai militari della Guardia di Finanza di Bari nell'inchiesta, ricorderete, aperta dalla Procura della Repubblica di Trani. Ma questa è un'altra cosa. Invece stavamo parlando di mercati e di spread, allora facciamo il punto su questa giornata con Deborah Rosciani. Di nuovo buongiorno Deborah. Sì, buongiorno Alessio e radioascoltatori. La mattinata si era aperta in negativo per le borse e poi le piazze finanziarie del vecchio continente hanno continuato a peggiorare la loro seduta. C'è da dire che però siamo reduci da una giornata brillante, quindi arrivano le inevitabili prese di beneficio appunto per i listini del vecchio continente. Milano perde l'1,28%, le altre piazze un po' meno, Parigi meno 1,21, Francoforte meno 1,20, siamo in linea. Londra in ribasso dello 0,96%. Mercato obbligazionario, lo teniamo più sotto osservazione. Oltre alle notizie da Bruxelles di cui avete appena riferito, c'è naturalmente anche l'attesa per le trattative sulla ristrutturazione del debito della Grecia, ma soprattutto questa mattina c'è stato un nuovo risultato positivo di un'asta spagnola su titoli di Stato a breve termine. La Spagna ha venduto 2 miliardi e mezzo di euro di titoli di Stato appunto a 3 mesi e a 6 mesi con rendimenti in vistosa discesa, e questo ha contribuito a di nuovo allentare la tensione sul settore dei bond governativi. Questo si è trasferito anche in Italia, perché lo spread fra BTP e Bund ha continuato la sua discesa stamane ed ha violato al ribasso la soglia psicologica dei 400 punti base. Negli ultimi minuti si è ritornati a salire, però è stato un segnale che naturalmente gli investitori hanno visto positivamente. Segnalo solo un caso di borsa, quello di STM, che sta perdendo molto, a Piazza Affari oltre il 5%, anzi il 6%, dopo i conti pubblicati questa mattina che hanno deluso le attese di mercato. È tutto. Grazie Deborah Rosciani. Adesso parliamo di evasione fiscale, perché sui dati, sono dati che sono sui giornali di oggi, sono oltre 7.500 gli italiani che non hanno mai pagato un euro di tasse, che equivale a redditi non dichiarati per oltre 50 miliardi di euro. Questi dati dell'attività 2011 della Guardia di Finanza, ma Radio 24 di evasione fiscale parla ogni giorno ormai da 5 mesi con la nostra rubrica Il Paese Sommerso. Sentiamo. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Quello che tiene in piedi le società sportive è l'evasione fiscale. L'affermazione decisamente forte è di un allenatore di pallavolo femminile che lavora da anni nel settore e che per continuare a farlo preferisce restare anonimo. Quello di celare ingenti evasioni fiscali dietro il paravento delle sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive è un tipo di frode piuttosto diffuso e tocca diversi sport. Il meccanismo è piuttosto semplice: un'azienda finge di voler fare da sponsor a una società sportiva. In realtà il 90% della somma versata dalla ditta alla società viene scritto a bilancio ma poi restituito sotto banco, permettendo all'azienda di crearsi una provvista di nero. A pagare le conseguenze sono spesso i giocatori e gli allenatori di quella squadra, che non ha i soldi per pagarli. Ma anche il fisco, ovviamente. Il caso più eclatante scoperto di recente è stato quello di Arzignano, in provincia di Vicenza, dove a settembre la Guardia di Finanza scovò un'evasione fiscale di 50 milioni di euro nel settore delle false sponsorizzazioni sportive. Pochi mesi prima, a Mantova, un meccanismo simile aveva permesso ad alcune aziende di sottrarre al fisco 7 milioni di euro. Un mese fa, poi, per false sponsorizzazioni sono finite sotto indagine in due diverse operazioni 5 persone a Reggio Calabria e 6 a Perugia. Proprio in questi giorni, infine, a Rovigo e provincia, gli 007 del fisco stanno compiendo alcuni blitz nelle società sportive per scoprire se vi siano degli illeciti di questo tipo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 19 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato della rivolta dei tir. Ad Asti un camionista investito è morto in un incidente. Stop ai blocchi ha intanto annunciato la sigla sindacale Trasporto Unito, da anni per milioni di euro al settore ortofrutticolo. Per quanto riguarda il lavoro sulla cassa integrazione, il ministro del welfare Elsa Fornero questa mattina ha frenato. È prematuro parlare di modifiche proposte dal governo. E poi è raggiunta in Europa l'intesa sul fondo salva stati dai ministri economici dell'Unione, apprezzamenti all'Italia e lo spread è sceso ancora. Adesso le altre notizie. A cominciare dall'indagine sul naufragio della nave Concordia, per il procuratore generale toscano Beniamino De Idda si deve indagare anche sulle responsabilità della Costa Crociere. Il datore di lavoro ha detto: il magistrato a capo dei pool che indagano su quanto avvenuto è garante responsabile, occorre spingere lo sguardo sulle scelte fatte dall'armatore. E intanto da questa mattina attorno al relitto sono riprese le operazioni alla ricerca di altri dispersi, anche per recuperare il carburante. Sono iniziate stamattina le operazioni di avvicinamento al relitto di Costa Concordia da parte della Smith Salvage, che esegue la prima ispezione sul relitto. Le operazioni di trasferimento del carburante dalla Concordia prenderanno invece il via sabato, come ha annunciato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, e proseguiranno per 24 ore, condizioni meteomarine permettendo. Il pompaggio interesserà i primi 6 cassoni, che conterrebbero il 50% dell'intero carburante. Si tratta di 2.400 tonnellate dell'IFO 380, un carburante tanto pesante che se dovesse sversare in mare coprirebbe il fondo con uno strato oleoso. Il pontone principale viene allestito con i materiali e nelle prossime ore saranno eseguite le operazioni di ispezione dello scafo a circa 18-20 metri di profondità. È necessario infatti vedere le condizioni dello scafo della Concordia prima di attaccare la prima cassa di carburante in sicurezza. Intanto i palombari della Marina Militare hanno fatto saltare l'acciaio a poppa della nave all'altezza del ponte 3. Il varco aperto dall'esplosivo consente la prosecuzione dei lavori di ispezione e ricerca dei dispersi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con la cronaca ci spostiamo a Roma, dove c'è stata una maxi operazione antidroga di polizia e carabinieri. 39 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti presunti esponenti del clan dei Casamonica. Fiumi di droga dalla capitale a tutto il Lazio, spacciati nel quartiere della Romanina, tenuto sotto scacco dai Casamonica, famiglia criminale più che nota a Roma. Vedette sui tetti, carreggiate ristrette con i camion per impedire il passaggio delle auto di polizia e carabinieri, e uno smercio soprattutto di cocaina a orario continuato dalle 8 del mattino a 1 di notte. A cedere le dosi erano le donne. Gli uomini della famiglia si occupavano dello smistamento degli acquirenti, soprattutto giovani ma anche molti minorenni, con un sistema di checkpoint e pagamento anticipato. In 39 sono state arrestati tutti della stessa famiglia, tra loro 15 donne. Per la prima volta gli viene contestata l'aggravante dell'associazione per delinquere, ma soprattutto per la prima volta sono stati attaccati i patrimoni di Casamonica. Contestualmente agli arresti infatti è stato eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 5 milioni di euro, perché gli enormi proventi dello spaccio venivano reinvestiti per alimentare il mercato della droga, ma anche in immobili. Nel corso delle perquisizioni di stamattina è stato trovato anche un borsone pieno d'oro, 135.000 euro in contanti, 20 costosi orologi e 36 auto di lusso appartenenti agli arrestati. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da Roma a Milano, che si sensibilizza sempre di più sulle infiltrazioni mafiose in Lombardia e in città. Infatti, dopo la commissione antimafia voluta dal sindaco, Milano avrà anche una commissione consiliare permanente per vigilare contro la criminalità organizzata. Il presidente indicato è David Gentili, lo abbiamo intervistato. Sono due luoghi diversi dell'amministrazione. Da un lato la Giunta, con le competenze che la Giunta mette in campo, dall'altro il Consiglio Comunale con le competenze, ma soprattutto con la rappresentanza. Il messaggio che vogliamo dare è proprio un messaggio inizialmente politico-culturale, per cui il problema è un problema grave in Italia, a Milano, è un problema non cronico e incurabile, per cui legato agli appalti in Expo piuttosto che all'applicazione dei protocolli. Anche simbolicamente avete già pensato a quale potrebbe essere il primo atto? Ma io vorrei interloquire come primo atto col prefetto, perché c'è il tema del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere che lui dirige, che è un tema importante e di grande attualità per quello che riguarda i prossimi appalti. Poi il prefetto è un'autorità rispetto alla sicurezza e ci potrà dare sicuramente un contributo importante per capire quali sono i temi importanti, emergenziali. E ora parliamo di un anniversario che riguarda il mondo dell'istruzione, perché compie 12 anni la riforma delle università, cosiddetta del 3+2, quella che consente di fermarsi dopo 3 anni di studio, un sistema che ha fatto crescere il numero dei laureati, colmando così uno storico ritardo rispetto all'Europa, secondo quello che dice la Fondazione Agnelli, che ha realizzato su questo tema uno studio che viene presentato proprio oggi. Il direttore della Fondazione, Andrea Gavosto, al microfono di Maria Piera Ceci. Diciamo che un altro dato molto interessante, che anche questo rispondeva a uno degli obiettivi della riforma, era l'idea che l'università dovesse passare da un'università di elite, come era prima del 2000, a un'università di massa. Ora, di massa non è ancora l'università italiana, siamo ancora in ritardo rispetto alle medie europee, però sicuramente si è allargata la base sociale di coloro che vanno all'università. Uno dei risultati delle nostre ricerche è che appunto ormai l'università non è solo più appannaggio di chi viene da una famiglia benestante o colta. E una volta sfornati questi figli del 3+2, trovano poi lavoro? La risposta è sì. Studiare ancora conviene per trovare un lavoro. Qual è il problema? Il problema è che trovano un lavoro probabilmente non sufficientemente qualificato rispetto alle loro aspettative. E ora parliamo invece di un appuntamento musicale. Per la prima volta in Italia, Pete Best, primo leggendario batterista dei Beatles, incontrerà il pubblico e la stampa per aprire le celebrazioni del 50° anniversario di Love Me Do, primo singolo dei Beatles. Gli incontri saranno a Napoli e a Bari domani e dopodomani. La 2 giorni organizzata con il supporto dei Beatlesiani d'Italia Associati, l'associazione, come sapete, che da 20 anni promuove in Italia la musica dei Beatles. E domani Pete Best riceverà il premio Rock Legend 2012. Adriana Fracchia, la nostra Adriana Fracchia, lo ha intervistato. Sentiamolo, il primo batterista dei Beatles. Pete Best, come ci si sente ad aver fatto parte di una band leggendaria come i Beatles? Oh, very proud. You know, no one knew 50 years ago that, you know. Ma nessuno 50 anni fa avrebbe immaginato che oggi si sarebbe celebrato ancora il compleanno dei Beatles. Perciò sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa band e di aver registrato con loro Love Me Do. Da qui è iniziato tutto. Sì, sono molto orgoglioso. Tutto cominciò nella tua cantina. Sì, alla Casbah. Non sapevamo che stavamo per diventare delle icone della musica a livello mondiale. Si suonava col cuore, con molta emozione, anche quando andammo in Germania, ad Amburgo. Tu hai detto che l'unico che può spiegare perché si concluse la tua collaborazione con loro è Paul McCartney. A 50 anni dalla mia sostituzione non sono ancora chiare le ragioni del perché. Perciò è soltanto Paul, come membro originale della band, e dato che gli altri, eccetto Ringo, sfortunatamente sono morti, è solo lui a conoscere le vere motivazioni del mio licenziamento. Per questo, ripeto, io non lo so. E l'unica persona che può saperlo è Paul McCartney. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Paolo Corleone in regia. Vi augurano buona giornata. In linea che va prima alla borsa e poi all'Italia in controluce. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.